scrive piango per dirti addio, e la mia mano sento tremar sul foglio bagnato dalle lacrime. Ti chiedo di non cercarmi più, la vita mia non ti appartiene, tu sai che a un'altra la dedicai. Amarci così non è possibile, lo devi comprendere anche tu. Ti avrei forse dovuto sfuggire fin da quando ti incontrai, ma fu dolce lasciarmi tentare. Per un attimo mi abbandonai. Ti scrivo e piango, ma son felice del breve istante donato a te. Un bacio ti mando e sarà l'ultimo, per sempre ricordati di me. La vita mia non ti appartiene, tu sai che a un'altra la dedicai. Amarci così non è possibile, lo devi comprendere anche tu. Ti avrei forse dovuto sfuggire fin da quando ti incontrai, ma fu dolce lasciarmi tentare. Per un attimo mi abbandonai. Ti scrive piango, ma son felice del breve istante donato a te. Un bacio ti mando e sarà l'ultimo, per sempre ricordati di me. Ti scrivo e piango pensando